Allora, buonasera, comincio io presentando alla mia destra la carissima Ada Zapperi Zucker. Suono forte, mi hanno detto devo dire, ma cosa volete? Io sono un siciliano ignorante Me l'ha detto proprio in adesso campo che è ignorante. linguistico, e almeno nella lingua tedesca, ahimè. Dunque, passiamo a un tono più serio adesso. Allora, Ada Zapperi Zucker è nata in Sicilia, abbiamo una comune origine siciliana, ma è cresciuta a Roma dove ha studiato canto presso una principessa russa. Infatti, Ada è laureata in canto presso la Musikhochschule di Vienna. Ha cantato e insegnato canto nelle principali città austriache e della Germania. Attualmente vive a Monaco da circa 20 anni, forse di più, Sì. e dove vive con l'amatissimo marito, ma soprattutto con una gatta che ha appena compiuto 16 anni, Molto dopo che importante. le figlie sono, i figli, cioè i figli sono andati via di casa, allora c'è la gatta. Ecco, da circa 20 anni frequenta, anzi forse di più, ma da circa 20 anni tiene corsi di canto a Bressanone, dove quasi ogni 2 settimane da Monaco va appunto a tenere questi corsi, quindi conosce, diciamo, abbastanza bene l'Alto Adige. Proprio perché insegnante di canto, ha numerosi allievi, vorrei citare tra i suoi allievi sicuramente più famosi Gemma Bertagnolli, che è una cantante, un soprano bolzanino, come sapete ormai è conosciuta in tutto il mondo, con appunto una cantante di fama internazionale. Io ho conosciuto Ada circa 3 anni fa alla scuola di scrittura creativa dell'UPAD che dirigo. E sono rimasto molto colpito a vedere una signora che 2 volte alla settimana veniva sì da Bressanone, ma finita la lezione si prendeva il treno e se ne tornava a Monaco, e questo per un anno intero, a dimostrare una passione per la scrittura veramente molto forte. Lei da tanti anni che scrive, però aveva un po' perso, come dire, la dimestichezza con la lingua italiana, vivendo a Monaco e frequentando prevalentemente a Bressanone la lingua tedesca. E quindi questi corsi di scrittura creativa sono stati forse l'occasione per riprendere in mano tutte le cose che aveva scritto, anche pittrice, dobbiamo dire, perché il dipinto che c'è in copertina del suo libro è frutto della sua mano. Quindi cantante, insegnante di canto, pittrice, scrittrice, proprio un'artista veramente completa. Ecco, la scuola delle catacombe è il suo, possiamo dire, felice esordio, visto che è andata esaurita la prima edizione, già in giro una seconda edizione, quindi questo segno dell'interesse che questo libro ha suscitato. E sono 5 racconti, la scuola delle catacombe, interamente ambientati in Alto Adige, ma è già pronto un romanzo ambientato in Alto Adige che uscirà per Travenbook, la casa editrice che, come sapete, c'è l'Aives, che da alcuni anni sta cercando di pubblicare tutto quello che di buono si produce nel campo letterario, nel territorio. E appunto un romanzo ambientato in Alto Adige. Allora, prima di passare ad analizzare un po' questi racconti, la prima domanda che vorrei farle, così diamo la parola, è appunto come mai questo interesse per l'Alto Adige, che naturalmente non è giustificato solo dal fatto che tu frequenti Bressanone, una casa a Bressanone, ma evidentemente nella storia di questa terra c'è qualcosa che stimola la tua immaginazione. Dunque, devo dire che è un caso perché io ho scritto non soltanto su storie sul Sud Tirolo, ma anche storie ambientate in Sicilia, storie ambientate in Germania, storie ambientate in Austria. Questo che è uscito per la prima volta, cioè il primo libro che esce per puro caso, è ambientato nel Sud Tirolo. Questo posso dire. Basta, così mi liquidi in Sì. 2 secondi, grazie. Stiamo Dunque, bene. il titolo della raccolta, naturalmente, lo spiegavo stamattina ai miei alunni, dicevo, se oggi pomeriggio vanno, allora hanno sempre da studiare, poi la mattina li interrogo e non hanno studiato, però quando li inviti al pomeriggio non sembra stare detto, volete venire oggi pomeriggio, c'è una presentazione alla biblioteca, Claudia Augusta, la scuola delle catacombe, qualcuno aveva vagamente sentito dire, forse invece tra di voi sono più numerosi coloro che coloro che sono a conoscenza del fatto che durante il regime fascista, l'italianizzazione forzata del popolo di lingua tedesca ha fatto sì che, vietando l'uso della lingua tedesca, se si voleva insegnare ai bambini il tedesco bisognava farlo di nascosto, come succede nel racconto di cui andiamo subito a parlare, appunto La scuola delle catacombe, che è il racconto che poi dà il titolo alla raccolta. Devo dire che è un titolo sicuramente molto evocativo, perché dà subito una direzione ai tuoi racconti. Appunto in questo racconto è protagonista una giovane maestra che arriva in questa terra con una missione, quella di insegnare l'italiano. Siamo negli anni del fascismo, però non gli hanno spiegato esattamente come stanno le cose, lei non immaginava di trovare l'ostilità che trova. Ecco, vorrei chiederti allora, sperando stavolta sia un po' più generosa nella risposta, dirci come mai appunto questo racconto, e poi peraltro dei cinque racconti è l'unico, possiamo dire così, che ha un punto di vista italiano, perché gli altri, poi lo vedremo, il punto di vista è più semmai dalla parte tedesca, appunto su tirolese. Quindi ci presenti questo racconto e poi magari ne leggi anche una pagina, così lo sentiamo. Dunque, la prima volta che sono venuta a conoscenza di questo problema delle due lingue qui nel Sudtirolo è stato, devo ripetermi, quando per la prima volta sono venuta, sono passata oltre le Alpi pensando di venire in Italia, e invece mi sono accorta che non era affatto Italia. Questo mi ha già colpito, però allora, devo dire, ero giovane, avevo altri problemi, bambini piccoli, eccetera, non mi sono tanto occupata di questo fatto. Poi quando circa 20 anni fa la Bildungszentrum di Bolzano mi invitò a fare dei corsi di canto per sudtirolesi, solo sudtirolesi, dove si parlava soltanto tedesco e non erano ammessi gli italiani, cominciai a capire che ci dovevano essere dei problemi, cioè che non era una cosa abbastanza normale che si parlasse due lingue e che non erano parallele, cioè uno vietava l'altro e cose di questo genere. Questo fatto mi incuriosì. Ebbi la fortuna di conoscere una quantità di sudtirolesi, tutti più o meno diciamo cantanti dilettanti, professionisti. L'unica è stata effettivamente la Gemma, che era però anche molto giovane ed era anche l'unica italiana, la quale non venne mai alla Bildungszentrum perché non era permesso. Questo fatto mi irritò al punto che dopo 4 anni mi licenziai, devo dirlo, perché non potevo sopportare che studenti fossero discriminati per via della loro lingua. Poi però man mano cominciai a capire che c'erano dei problemi molto grossi lì dietro. Un mio allievo, del quale non faccio il nome, mi raccontò che suo padre passò almeno 2 o 3 giorni in prigione perché fu scoperto mentre parlava in tedesco, oppure diciamo in sudtirolese, che poi è una cosa come tedesco, a casa sua, perché era proibito. Lui praticamente era costretto a parlare in una lingua straniera per lui anche a casa. Questo fatto naturalmente mi incuriosì ancora di più e cominciai a leggere libri. E ho letto, devo dire, una quantità di libri di storia sul Tirolo, perché non è vero che si scrive per una questione di talento o di emozione oppure di invenzione, di fantasia. Dietro c'è sempre un... mi vengono sempre parole tedesco, scusatemi. C'è un'armatura, un Rüstzeug, si dice in tedesco, proprio un'armatura di cognizioni anche storiche, perché altrimenti una storia non ha basi, vive per aria. Conclusione, quando ho capito tutti i conflitti e i problemi fra le due, diciamo, i due gruppi etnici, in brutta parola però è così, che esistevano e che convivevano in questo paese, ho cominciato a a osservare le persone molto di più. Devo dire che ho osservato più i sudtirolesi che non gli italiani, perché non avevo contatti con gli italiani. Io avevo soltanto contatti con sudtirolesi, prima di tutto perché lavoravo alla Bildungszentrum, dove venivano soltanto sudtirolesi. Secondo, questa è la cosa più ridicola, perché mio marito è austriaco. Dico perché è ridicola, perché in questo modo sono stata accettata dai sudtirolesi. E non come italiana, ma come una che, insomma, di bilenco ci entra. Conclusione, io gli italiani li ho conosciuti alla UPAD. Questa è una cosa molto strana. Per la prima volta ho conosciuto degli italiani nel Sudtirolo. Infatti io continuo a chiamarlo Sudtirolo e non Alto Adige. Perdonatemi tutti. No, ecco, quell'altra storia, quel romanzo che io ho scritto 6-7 anni fa, adesso sono 7 anni nel cielo, vista dalla parte degli italiani, non nacque come una storia per dimostrare che in realtà anche gli italiani hanno avuto i guai loro, per modo di, ed è vero, perché sono venuti qui e certamente non sono stati accolti a braccia aperte. E infatti il titolo di per sé parla, dice quello che è, cioè il silenzio. Questo qui è il titolo di questo romanzo breve, in cui racconta effettivamente la storia di una famiglia di calabresi che va a finire quasi al confine, dove abitavo io, devo dire, per molti anni. Avevo una casa lì al confine, vicino al passo di Penes, proprio al confine con l'Austria. E ho voluto anche descrivere una parte, vista però sempre da un punto di vista femminile, perché tutte le mie storie partono sempre da questo punto femminile, come si ritrovano le donne, perché devo dire gli uomini non mi interessano, però come si ritrovano le donne quando arrivano in un contesto già ostile e nemico, non dico nemico, ma anche una parola molto bella tedesca, lo devo dire, fremd, estraneo. Come si ritrovano lì, qui, le donne? Come si sono ritrovate agli inizi, siamo nel 20, nel 30, nel 20 no, ma nel 30, nel 40, quando queste donne sono emigrate qui? Donne molto semplici, perché chi emigra è chiaro che non ha a casa, che ne so io, i lussi, è una persona che ha bisogno di lavorare, quindi ha bisogno di emigrare. Non ha importanza dove, in quale posto, però l'emigrazione è sempre una cosa dolorosa, è una cosa che fa male, soprattutto alle donne, perché gli uomini in realtà hanno un loro mondo, che è il loro mondo del lavoro, nel quale poi più o meno si ritrovano. Le donne sono quelle che per 24 ore su 24 sono confrontate veramente con la realtà giornaliera dei loro contatti con questa gente, andare ai negozi dove non si capisce una parola, di vedersi trattata piuttosto male, eccetera. Questa era la cosa che mi interessava. Qui è tutto l'altro discorso, queste sono veramente, queste sono storie tutte diverse dal punto di vista dei sudtirolesi, come hanno vissuto questo periodo della perdita della Prima Guerra Mondiale, perché per loro è stata una grande perdita, la caduta dell'impero austro-ungarico, per loro è stato il crollo completo, e come hanno vissuto tutti questi cambiamenti. Ho finito. Leggici una pagina, però, almeno quello ce l'ho. Dunque, ce l'ho della scuola fare. Delle catacombe, ho scelto stranamente, devo dire stranamente perché ci ho pensato mentre ero in treno, la fine, la conclusione, cioè, dunque, bisogna che racconti brevemente, sì. Questa ragazza è arrivata in questo paese che, lo posso dire forte, Goudon, che si chiama Goofy Down, però l'ho cambiato in Godon per non farlo capire molto. Lei viene da una famiglia fascista, proprio il padre è morto in Etiopia per civilizzare questo popolo di barbari oppure di selvaggi. Adesso il suo zio, che abita a Polzano, proprio vicino alla Piazza della Vittoria, tutto quanto lì documentato fra l'altro, è un fascistone, uno che proprio è convinto che gli italiani qui faranno piazza pulita di tutti questi selvaggi, eccetera, eccetera. Conclusione, lei arriva con questo grandissimo compito di venire a civilizzare questa gente, senza pensare che questa gente la loro civiltà ce l'hanno, non solo ce l'hanno, ma è una civiltà addirittura superiore al mondo contadino italiano, questo bisogna dirlo. Tant'è vero che, questo forse non si sa, all'inizio del secolo, e non so fino alla fine, fino all'inizio o alla fine della seconda guerra mondiale, l'analfabetismo in Italia era al di sopra dell'80%, non voglio esagerare, ma per esempio nel sud Italia, Calabria, Sicilia, Campania, eccetera, lì si arrivava all'86% come uno scherzo, cioè la gente non sapeva leggere e scrivere, mentre invece nel sud Tirolo erano tutti alfabetizzati. C'era soltanto un 3-4% che non sapeva leggere e scrivere, anche i contadini andavano a scuola, cioè avevano una loro cultura e sapevano leggere e scrivere. Questa storia del leggere e scrivere viene fuori in un altro racconto, la Tresel. Tanto è vero, scusate se salto di palo in frasca, tanto è vero che le ragazze sudtirolesi erano richiestissime in Italia appunto per questo fatto, perché loro sapevano prima di tutto l'italiano e il tedesco e poi sapevano leggere e scrivere, cose che la maggior parte delle domestiche italiane oppure governanti o così non sapevano. Ma dico, non voglio parlare delle domestiche, io parlo di mia madre che aveva la quinta elementare, oppure di la nonna di una mia carissima amica industriale ricchissima di Milano, la quale nonna, una donna molto intelligente, aveva fatto soltanto la seconda elementare. C'era la famosa licenza di seconda elementare, quindi si può ben immaginare quanto era veramente alfabetizzata, mentre invece qui si facevano le scuole regolari, eccetera, eccetera. Questo lo volevo dire per precedere questo arrivare in grande entusiasmo e vedere che nessuno viene in classe, questa è la cosa più tragica. Lei ha il primo giorno di scuola e arrivano soltanto 3 ragazzini con 3 padri che li accompagnano per motivi precisi e uno di loro dice vattene a casa tua, ecco questa qui dice tornati a casa tua. E lei non lo capisce. Dopodiché succede una storia molto per lei incomprensibile, e cioè io ho posizionato questa storia all'inizio, cioè nel 6 dicembre, 6-7 dicembre, ho guardato il calendario per vedere che giorno era tutto quanto, non credete, non mi sono inventata niente, e quando del 1939, quando il 31 dicembre scadeva il termine per l'opzione famosa. Allora si può immaginare come ribolliva qui tutta quanta la gente, no? E lei arriva proprio nel momento migliore, no? Quando proprio stavano scoppiando. Conclusione, questi 3 padri, che erano i cosiddetti Dableiba, erano quelli che avevano stabilito o deciso di restare qua, andarono con questi 3 ragazzini accompagnandoli, sapendo che i loro figli erano in pericolo. Però neanche potete riuscire a dire 2 parole che subito cominciarono a buttare, insomma, venne un tafferuglio, si picchiarono, eccetera, eccetera. Lei era sconvolta, non ha capito niente di tutta la storia. Conclusione, io vi racconto tutta la storia, poi me la leggete però. conclusione, quando lei finisce questa storia, è avvilita, distrutta, così, e manda questi ragazzini a casa, eccetera, eccetera, se ne va dal prete per cercare di sapere cosa sta succedendo, perché lei non sa assolutamente niente, perché in Italia non si sapeva assolutamente niente, perché ancora non si sa niente in Italia di queste cose. Questa è una cosa molto importante, perché passato il Trentino, io ho fatto una presentazione a Roma, la gente era così di stucco, dice, ma possibile, lo giuro, nessuno sapeva niente di queste cose. Conclusione, le va dal prete e lì viene a vedere cos'è la scuola delle catacombe, che è inutile che vi spieghi perché voi lo sapete. Adesso lei torna a casa e si fa le sue riflessioni e scrive alla mamma. Sono 2 lettere alla madre. La conclusione dell'ultima lettera è questa, un post scriptum. Scusate, devo bere un bicchiere d'acqua, ho parlato troppo, tu dici no, parlare. Bevi, tranquillo. Fra queste montagne, per la prima volta immagino come deve essere stata la guerra, la grande guerra. E se ne scoppiasse un'altra? Mentre ti scrivo, sento il vento fischiare attraverso gli stipiti della finestrella. Credo stia anche nevicando. Penso ai nostri soldati allora venuti qui fra queste montagne per difendere la patria, morti assiderati dal freddo. Ho dei presentimenti, pensieri tetri che non riesco a scacciare. E se i tedeschi continuano a marciare contro la Russia dopo aver occupato la Polonia, cosa accadrà? Devo fare una parentesi per chi non lo sa, il primo settembre del 39 esattamente, i tedeschi avevano occupato la Polonia. Quindi siamo proprio in mezzo all'inizio della prima guerra, della seconda guerra mondiale. Il Duce, se non sbaglio, ha firmato il cosiddetto patto di acciaio con loro, che vuol dire che siamo alleati dei tedeschi, i nostri vecchi nemici. Ci sto male. Ma forse non dovrei scrivere queste cose e neanche pensarle. Non riesco a calmarmi. Sento che qualcosa di terribile sta bollendo in pentola e ho paura. Lo so che di notte i pensieri acquistano dimensioni mostruose, ma non posso smettere di chiedermi perché non sia possibile lasciare la gente in pace. Perché queste conquiste, queste sopraffazioni, questo voler imporre ad altri il nostro modo di pensare, la nostra lingua? Chi stabilisce che una cultura, una religione, una civiltà è superiore e più giusta di un'altra? Che diritto abbiamo di imporla ad altri popoli? Non si tratta della vecchia legge del più forte? Dio, quante domande! Come faccio domani a insegnare l'italiano a questi bambini che stanno tanto bene con la loro lingua? Non è anche questa una forma di violenza, un voler togliere loro l'identità linguistica, che è la prima forma di riconoscimento per ogni popolo della terra, e io strumento di sopraffazione. Cara mamma, come vorrei essere a casa? Questa è la fine di questo racconto, abbastanza politico, polemico e tutto quanto, mi scusate, ma io sono così e non potevo scrivere una cosa molto dolce. Io, insomma, l'applauso mi sembra molto, molto chiaro. Io invece direi, dal punto di vista della letteratura, è un bene quando uno scrittore afferma nettamente delle posizioni, io credo, in una, anche nell'uso politico della letteratura, purché sia, non sia un gioco ipocrita e lo scrittore si assume in pieno le proprie responsabilità, come fai tu sostenendo questo. Grandi scrittori sono sempre stati, soprattutto nel secolo appena finito, scrittori che hanno raccontato la storia, e raccontare la storia significa prendere una posizione, non si può stare sospesi, se no scrive una storia d'amore, la storia d'amore certo. Magari non è, ma scrivere dei racconti ambientati in una terra come questa ti costringe a comunque prendere posizione, ma quello che viene fuori, comunque, per chi non l'ha letto, da questi racconti, sicuramente non è il nazionalismo, non è una parte contrapposta all'altra, ma semmai tu hai voluto sottolineare cosa è la lacerazione, cosa è la sofferenza di chi da un lato è costretto a non poter parlare dall'altra lingua, ma dall'altra parte di chi si trova qui senza sapere, che è costretto ad imporre un altro la propria lingua. Quindi sono esattamente due dimensioni di violenza in ogni caso, perché voglio dire, quando prendevano il povero contadino o l'impiegato della posta dalla provincia di Caltanissetta, lo spedivano a Vipiteno, non è che proprio fosse un viaggio turistico, no? In una lingua assolutamente strana, in un mondo ostile, e viceversa. Appunto, c'è un racconto in cui c'è una ragazza su tirolese che va a fare la domestica in un albergo di Catania, la domestica in Sicilia. Ecco, ci vuoi dire qualcosa di questo? È un racconto molto interessante, perché ci sono degli amici, stanno facendo una passeggiata e la voce narrante viene incuriosita da un personaggio, una donna molto anziana, che sembra conservare un segreto, no? dall'aspetto, e allora questo ci dice anche come in questi racconti c'è proprio una ricerca dei segreti, cioè la ricerca della storia, che in parte è quella che noi conosciamo, ma il compito della letteratura è anche cercare di andare oltre, e questo è come dire, il miracolo della letteratura, perché permette allo scrittore di poter immaginare i pensieri, le emozioni, e quindi non fare semplicemente cronaca o storia. Allora, presentaci questo personaggio, Tresl, e anche come è nato. Io posso dire una cosa: ogni volta che vedo una vecchia signora, una donna anziana, comincia a pensare alla vita che ha avuto, prima di tutto l'immagine di questa persona man mano si comincia a ringiovanire e finisce che arriviamo perfino all'infanzia, perché ognuno di noi, uguale in quale età si trova, ha avuto un'infanzia, ha avuto una gioventù. Non ha importanza tutte le rughe che ha in viso, in realtà c'era un viso fiorente, ha amato, ha avuto delle relazioni che ora nessuno riuscirebbe più a immaginare. Però a me piace immaginarle. Ogni volta che vedo una, non so se siete in treno oppure dovunque, io osservo e penso che vita avrà avuto, cosa c'è stato dietro questo viso, dietro ogni ruga, cosa c'è. E questo qui è una cosa che mi affascina moltissimo, devo dire che ancora, no, senza offendere, perché io so che c'è qualcuno di molto giovane che me le darà dietro, in un viso giovane non riesco a trovare niente. È molto difficile che un viso molto giovane mi ispiri qualche cosa. Cosa ha vissuto ancora molto poco, le sue esperienze sono molto limitate. Certo, chiaro, è molto ingiusto quello che dico io, però più gli anni vanno avanti, se penso per esempio, ci sono delle persone che hanno vissuto la guerra, questa qui addirittura, questa Trese l'ha visto la prima e la seconda guerra mondiale, ci sono delle persone, infatti vecchissima, e queste sono le persone che mi affascinano di più, che mi interessano di più, sono quelle che hanno tanto da dire. E in realtà non è importanza la vita che hanno condotto, questa qui poverina era una cameriera, una contadina, quindi non è la vita grandi storie, grandi cose, no, è la vita in sé che è estremamente interessante, questo volevo dirlo come inizio. Dunque incontriamo questa vecchia signora, e questa vecchia che non è affatto una signora, è una vecchietta, forse è bene che vi legga questa parte, come si presenta ai nostri occhi. Poi questa è una cosa importante che tu non neanche hai notato, questa volta non c'è un io né un e, ma noi. Mamma mia, mi sono buttata proprio. Sì. Questa è l'ultima volta che ti presento, esatto. Adesso abbiamo chiuso. Dunque, questa vecchina la presento subito, è in una casa, proprio una catavecchia in mezzo alle montagne, una baita che uno pensa non abita nessuno lì. E invece scopriamo in una nicchia fra le pareti incredibilmente affumicata e la stufa siede un mucchietto di qualcosa con dei ruvidi calzerotti di lana ai piedi, due pantofole di stoffa che sembrano fatte in casa, un vestito di flanella scura a fiorellini più una specie di sopravveste senza maniche abbottonata davanti, anch'essa a fiorellini ma di colore diverso, che qui portano tutte le donne anziane dalla mattina alla sera. In testa, ben annodato, un fazzoletto di cotone chiaro. Una vecchina, distinguiamo infine, rugosa in modo inverosimile. Minuta, le spallucce incurvate in avanti, le piccole mani nodose raccolte in grembo. Questa è praticamente la presentazione di questa Trese, che voi sapete che significa Teresa, no? Allora, incontriamo questa donna in un ristorante dove in realtà volevamo andare noi, e scopriamo che questa vecchina in realtà è la bisnonna dei proprietari di questo ristorante. Il padrone del ristorante, che è un contadino che è diventato adesso proprietà, come molti di qui che dalla loro casa di contadini hanno fatto un albergo, un ristorante, eccetera, ci dice più o meno questo: una vita in alta montagna, riusciamo a immaginare cosa significhi? La strada asfaltata è stata fatta solo da pochi anni, racconta il padrone. Prima si andava a piedi e in altri tempi si aveva sì e no un cavallo per i trasporti pesanti. Scendere per la messa la domenica voleva dire 2 ore di andata e almeno 3 di ritorno. Bisognava partire col buio per arrivare in tempo e se ne andava una mattinata intera. D'inverno poi la neve, il vento, le tempeste che potevano durare giorni e notti sconsigliavano anche di uscire di casa, tale era il pericolo delle valanghe e della neve che copriva i crepacci. Si racconta ancora, dopo molti anni, di infortuni di gente scomparsa per sempre, inghiottita dai crepacci, di spiriti di morti vaganti nelle notti di luna che chiamano l'incauto viandante per nome. Questa è una cosa molto importante, perché in realtà noi, io soprattutto di città, non riesco a immaginare la vita in un posto completamente isolato, dove forse 2 o 3 volte l'anno, d'inverno soprattutto, si vede una persona estranea. Queste persone vivono in un cerchio veramente molto ristretto, ed è anche chiaro che in una situazione di questo genere nascano anche grossi conflitti e qui ne nascono a voglia. Dunque, adesso arriva la padrona che racconta un pochino di lei, di questa Tresel. La bisnonna Tresel è originaria della Valle Aurina e deve avere più di 90 anni, essendo nata ai tempi della Dona Omonazzi. Una volta anni fa, quando era ancora in grado di ricordare con una certa lucidità, ora la sua memoria lascia molto a desiderare, fra le tante cose che ci raccontava della vita passata, storie per noi assai curiose, quasi incredibili, venne fuori che suo padre, alla notizia della morte del Kaiser, 1917 bisogna così, aveva commentato che adesso sarebbe crollato tutto, che niente sarebbe rimasto come era prima. Lei, forse di 8 o 10 anni, non aveva capito come la morte di una persona così lontana potesse provocare chissà quali disastri a loro in mezzo alle montagne, e aveva cominciato a osservare la casa, i muri, il tetto, cercando crepe ed altri segni che annunciassero l'inizio di una rovina e forse anche della fine del mondo. Allora le bambine erano molto ingenue, aggiunge con un tono di superiorità. Allora, questo qui è un po' l'ambiente estremamente contadino nel quale vive questa Tresel, che poi viene violentata dal contadino, cosa che pare, devo dire che una cosa molto importante, io ho molti allievi che sono figli di contadini e mi hanno raccontato molte cose, infatti tutti questi particolari, tante cose mi sono state raccontate da loro, e so che la violenza sulle ragazze, sulle magde o le ragazze che lavoravano, le contadine impiegate lì, era una cosa abbastanza normale, non è che si facevano tanti pensieri. E questo qui, infatti, a lei succede, chiaramente. 13 anni e viene subito violentata. Mi è stato fatto guarda, ti tolgo la parola di bocca, che nei miei racconti ci sono sempre c'è molta violenza. Me lo volevi dire sicuramente, questa storia della violenza? Sì, te lo volevo chiedere. Soprattutto della violenza sulle donne, devo dire. Sì. E questo è un tema che mi tocca personalmente molto. Tutti stanno a ridere, vabbè. No. Dopo la sua battuta di lui. Non ridevano per la violenza sulle donne. Non so, l'ho capito perfettamente. Per la tua... No, il fatto di averti tolto la parola. Imperioso. No, perché effettivamente sì. È vero che c'è molta violenza sulle donne, ancora appunto, adesso. Ma certamente. Però stavi dicendo che tra le cose che ha fatto Tresl è stata anche in Sicilia. Sì, lei è stata mandata, mica c'è andata lei di libera volontà, come tutte queste storie. No, lei è stata presa perché siccome... la contadina era gelosa di lei, dice questa ragazza deve andare via di qui, e la mandarono in Sicilia a fare la cameriera. E lì conobbe l'amore, il vero amore. E con un siciliano, una bravissima persona, l'ho fatto così, non tutti sono così, ma in ogni modo nel racconto l'ho messo un bravo siciliano, che però la seduce. Ci sono anche bravi siciliani in Sicilia, non sono mica tutti criminali. Ad ogni modo la seduce... Lei non trova la cosa non naturale, perché ormai è abituata a questo tipo di trattamento maschile, e in attesa di un bambino, e torna subito a casa perché non può mettere al mondo un bambino senza padre. Lei, bisogna dire che è stata sposata anche qui senza che lei sia stata mai, fatta una domanda di matrimonio, è stata sposata col figlio più giovane del contadino. Conclusione, lei gli spiattella questo, nessuno ci crede, infatti nel paese tutti mormorano che questa qui dopo pochi mesi mette al mondo un figlio, dice ma che... E questo qui è un racconto che mi è stato ispirato, effettivamente lo devo dire perché tanto non c'è, lo vedo che non c'è, da un tipo che aveva il soprannome l'italiano, perché aveva esattamente l'aspetto di un italiano ed era l'aspetto del padre. Questa è la storia. Questa è la storia. Ecco, a proposito sempre di violenza, di donne e di solitudine, perché poi un altro tema di questi racconti è la solitudine in diverse forme, è sempre, ahimè, patita dalle donne. C'è un altro racconto, che è il primo racconto della raccolta, La vecchia di Villa Clara. Anche lì si racconta di una giovane ragazza che chiede, si aggrappa a un cliente dell'albergo dove lei lavora, il signor Gruber, e chiede di essere salvata, di essere portata via. Ne nasce una curiosa storia d'amore, e il racconto si apre proprio attraverso i pensieri di questa vecchia signora, che fa quasi un po' un bilancio della sua esistenza. Devo dire che in questi racconti non trovate l'azione, ma trovate tutto un lavoro interiore di descrizione di stati d'animo, di descrizione di emozione, di descrizione anche di paesaggi, descritte tutti molto bene, con una lingua veramente elegante. Prende, mannaggia, porta a casa. Accidenti, ecco. Quello... il mio maestro, questo è il mio maestro, bisogna dirlo. Sì. Ecco, ci parli di questo racconto, ci leggi anche qui una pagina, magari dopo sentiamo se c'è qualche curiosità tra il pubblico, se qualcuno vuole fare i conti con queste tue prese di posizione. Dunque, tu hai detto una cosa che avrei voluto subito reagire, però sono riuscita a frenarla. Bravo. E cioè... Che fatica. Cioè la solitudine delle donne, sì. Questo non vuol dire che gli uomini non abbiano la solitudine. No, però in questi racconti certo. Abbiamo detto il fuoco è sempre sulle donne, e la solitudine certo. È prevalentemente, dunque, anche il signor Gruber in realtà è una persona assolutamente sola, che non ha alla fine nessuna relazione con questa moglie, con cui eppure fa dei figli, no? Certamente. No, dunque la solitudine è anche un po' il mio tema fondamentale. In realtà siamo tutti soli, sia uomini che donne, siamo tutti soli. Siamo soli però con noi stessi. E la cosa fondamentale è trovare finalmente questa unione con noi stessa. Ed è questo che trova lei alla fine, cioè nella sua solitudine, perché la storia in realtà inizia con i suoi ricordi di quando bambina, finita la Prima Guerra Mondiale. Lei viveva nella Slesia, quindi in un posto di frontiera dove la guerra durò fra l'altro fino al 1921, perché lì c'era la Polonia e tutti questi paesi, fu il periodo veramente del crollo dell'impero austro-ungarico. Lì scorrazzavano soldati, insomma lei è stata continuamente violentata, e quindi quando vide quest'uomo, che fu la prima volta che vedeva un uomo con gli occhi buoni, questa è una cosa molto importante nel racconto, perché ci sono anche uomini con gli occhi buoni. Pochi, ma ci sono. Ci sono, bisogna soltanto andarli a trovare. C'è quello il problema. Allora, quando vede quest'uomo dice, ma io devo andare con questo, è l'unico che mi può salvare, devo andare assolutamente con lui. E lui è molto, perché lui è vedovo, ha perso la moglie la famosa spagnola, dove sono morti più di 20 milioni di persone in tutto il mondo, più di quanti abbia ucciso la guerra. E lui era andato in realtà a visitare i parenti della moglie, a comunicare che la moglie era morta, perché era la prima possibilità che aveva avuto di passare finalmente in tutto questo frangente, in tutta questa guerra tremenda, perché è stata una guerra veramente, soprattutto nella parte orientale dell'Europa, veramente tremenda. E ha due figli che sono naturalmente orfani di madre. Allora va in questo posto, in questo ristorante della stazione, e c'è un incontro abbastanza, diciamo, a modo mio romantico, ma a modo mio, e cioè nel senso che si conoscono nel fatto che lei gli porta la minestra e gliela rovescia sui pantaloni. Quindi un modo abbastanza poco romantico, però in questo modo lei si accorge dalla reazione di lui che è un uomo buono, perché lui invece di arrabbiarsi eccetera, la padrona subito viene, la picchia eccetera eccetera, lui invece dice basta, gli dai i soldi e dice non maltratti questa ragazza. È la prima volta che una persona interviene per lei, questo bisogna anche pensare. Lei aveva forse 15 anni, aveva già visto veramente una tale quantità di brutalità che vedere un uomo che interviene per lei, un uomo, un signore poi, vestito anche bene, la impressionò enormemente. Conclusione, decise appunto di andare con lui. Il signor Gruber, dopo averci pensato un po', che fra l'altro aveva avuto una cinquantina d'anni, quindi è un uomo pesante, massiccio, non certo bello, grasso forse, insomma, è il classico uomo che ormai non ha nessuna intenzione di sedurre ragazze, cose di questo, da parte che era in lutto, eccetera, eccetera. Allora lei gli dice: ma io devo venire con voi in ogni caso. E allora mi dice: vabbè, e pensa fra sé e sé, ma in fondo potrebbe fare la bambinaia ai miei bambini, perché no? E se la porta. Bisogna anche pensare che in quel periodo Merano, perché la storia si svolge a Merano, precisamente a Marlengo, questa villa Clara si trova a Marlengo, e ancora apparteneva all'Austria, non si sapeva, quindi lui ancora si ritrovava a casa sua praticamente. Dunque, a conclusione, lui se la porta e dopo un viaggio in treno abbastanza, anche da un punto di vista romantico, cioè che ha pietà di questa ragazza coperta di stracci, è inverno, ha freddo, allora si toglie una giacca di lana e gliela mette addosso, una cosa per lei mai vista proprio, e lei si innamora fulminamente, proprio come un fulmine, di quest'uomo. Dice: quest'uomo lo seguirò fino alla morte, perché non aveva mai trovato nessuno. Però questo signore pensò, appena scese, perché bisognava fare questo viaggio in diverse tappe, dato che i treni non funzionavano, eccetera, eccetera, scese a Vienna. Allora, potete immaginare per quale motivo il signor Gruba l'aveva fatta lavare, si ricordò, appena scesi dal treno a Vienna, perché evidentemente era molto sporca. Prima però le aveva comprato un vestito favoloso. Adesso sapeva che non era affatto favoloso, ma allora era rimasta abbagliata, e una lunga camicia bianca che lei usò come sottoveste e come camicia da notte. Per lungo tempo non se la tolse di dosso giorno e notte, finché notò che cominciava a cambiare colore, più grigio che bianco. A questo punto aveva preso l'eroica decisione di togliersela e di lavarla. Il signor Gruba aveva provveduto anche alle scarpe e alle calze, un paio di calze grigie di lana ruvida ma calde e un grande scialle nero pesante. Ma non aveva pensato alle mutande, forse per pudore o forse perché credeva che lei ne avesse già. Poco prima, devo dire, questo è un episodio che forse credo nessuno di voi conosce, in realtà prima non si portavano le mutande. E questo l'ho saputo, lo racconto, non c'entra con la storia, ma così che possiate anche vedere come nascono questi pensieri. Quando io ero ad Hannover, il mio padrone di casa era un macellaio molto ricco. Il suo palazzo dove abitavo io era il frutto di chissà quanti imbrogli che aveva fatto. Ad ogni modo, lui era una bravissima persona, però. E lui ogni tanto mi raccontava qualche cosa e mi disse: ma le devo dire, la prima volta che ho portato delle mutande è stato quando mi sono sposato. Lui avrà avuto un 60-70 anni. Io lo guardo stupito, dico: perché? Ma perché? Dice: prima non si portavano le mutande. Mia moglie subito disse: no, mia moglie è una gran signora, che l'ho conosciuta, non era affatto una gran signora, però lei portava le mutande. Quindi questo tema delle mutande mi è andato sempre in testa, perché allora mi impressionò tantissimo il fatto che la gente non avesse mutande. Poi, fra l'altro, ho scoperto, ma questo non c'entra neanche con la storia, che la forma delle mutande che portiamo adesso, dico le mutande con la gambaletta, è nata soltanto verso la prima metà del Novecento. Non è che prima c'erano le mutande lunghe fino ai piedi, no? Mutandoni. E quindi, insomma, tutta questa storia delle mutande mi piace tanto. E l'ho voluta infilare qua dentro. Dunque, quindi non gli ha comprato le mutande. E infatti lei aveva detto una sua riflessione. Rifletti un momento e afferrò con decisione la più propria antica, perché adesso da vecchia ce l'ha le mutande, quello strano indumento che aveva conosciuto solo nella casa del signor Gruba. Io faccio un salto indietro, scusatemi. Sua madre, suo padre e i fratelli non avevano mai portato un simile aggeggio. Lo sapeva perché era lei a lavare la biancheria al fiume insieme alle altre donne del villaggio, e neanche le altre avevano mai avuto in mano niente del genere. E sicuramente roba da gente ricca, aveva pensato la prima volta che ne aveva visto un paio, e chissà come si fa a infilarsele. La conferma venne dopo e ora lo sapeva. Solo la gente ricca porta le mutande. Ecco, questo qui, il capitolo delle mutande è importantissimo. Dunque, questo signor Gruba l'aveva portata in un bagno pubblico e l'aveva affidata a una bagnina. Adesso io credo che qui ci sia pochissima gente che sappia che a Vienna ancora, questo me lo insegnò mio marito, ancora negli anni 60, se non credo 70, perché da lì poi sono andata via, c'erano i bagni pubblici, cioè un posto dove si andava a fare la doccia per pochissimi soldi, perché le case non avevano la possibilità di lavarsi, no, per me era una novità assoluta. Se vuoi ti posso dire che io nel 1985 ho fatto la doccia in un bagno pubblico a Torino. Dai. Perché ho avuto la fortuna, tra virgolette, di essere ospitato da un amico che abitava in una di queste case a ringhiere che c'è allora a Torino, erano le case degli emigrati arrivate dal sud Italia a Torino negli anni 50, con semplicemente il famoso cesso alla turca nelle scale, quindi ci si andava a lavare, si andava a fare e credo che ci sia ancora a Torino il bagno pubblico, quindi se ti capita una volta di passare a Torino puoi fare no, invece per me, io vengo da Roma e a casa mia avevamo il bagno, non vi voglio dare le ali, per favore, no, però questa storia del bagno pubblico mi impressionò enormemente. Conclusione, lo voglio infilare anche qui. Sì, sì. Bagni pubblici. Stazione diurno. Di diurno, bagno pubblico. Angolo via Alto Adige più o meno. C'è un arco. Anche qui a Bolzano. No, cioè, ma dopo fino a 20 anni fa c'era una sauna. Pure. La sauna. Adesso non c'è più. Ad ogni modo questa cosa mi impressionò moltissimo. Poi l'aveva portata in un bagno pubblico e l'aveva affidata a una bagnina. Mentre faceva scivolare una moneta nella mano della donna, le aveva sussurrato qualcosa all'orecchio, una raccomandazione, forse un consiglio. Doveva aver supposto, non a torto, che la ragazza vedeva per la prima volta nella sua vita uno stabilimento simile. Pensate che veniva dalla campagna, lì dove c'erano i bagni pubblici. Effettivamente, appena la bagnina aveva aperto l'acqua della doccia, lei si era slanciata fuori della cabina urlando di terrore. La donna aveva riso di lei. Ce ne volle del bello e del buono per convincerla a rimettersi sotto. Non poteva ancora dimenticare la paura e un confuso senso di umiliazione. No, quella doccia decisamente non le era piaciuta. Ancora adesso preferiva la tinozza, le poche volte in cui decideva di sprecare tanta buona acqua calda solo per lavarsi. Poi arriva un momento, quando lei decide di restare con lui, dice, beh, se proprio è necessario farò un'altra doccia. Così proprio per dire, proprio ormai sono legata mani e piedi a lui, quindi farò pure la doccia. Non so se qualcuno ha qualche curiosità da chiederti, se no ho qualcosa da contestare. Tu contesta! No, non mi torna... Questa donna vive, questa donna Cathy anziana. Sì, vive ancora, sono morti tutti, lei è rimasta all'ultima. Sì, ma quanti anni ha oggi? Avrà avuto, non oggi, questa storia si svolge all'incirca nel 2002-2003. Quindi se facciamo allora i conti dovrebbe avere una novantina d'età. Le ho detto quando ho scritto. Sì, ma no, perché nonostante che avesse, cioè faccio i calcoli un po' con mia madre, no? Quindi cioè, non mi ritorno tanto quelle date, perché nel 21, per dire, uno che nel 2002 aveva 90 anni, adesso ne ha 96, giusto? Certo. E quindi se ne ha 96 è del 10. Dunque lei aveva 16 anni quando lei fu, dunque nacque praticamente all'inizio del secolo, forse sì, la storia si svolge, guardi, ho fatto i calcoli già, mio marito è matematico, è il primo che legge e mi dice questo non funziona, si deve essere forse nel 96 o qualcosa del genere, sì. Ma ad ogni modo questa è anche un'invenzione, devo dire che questa storia è nata. Questo è molto importante, che i lettori sappiano come nascono le storie. La nonna di un mio allievo di Marlengo viveva in questa casa, in questa villa che si chiama Villa Clara, il nome è un altro, l'ho cambiato, e mi raccontò com'era questa stranissima casa. E io la descrivo perché è qualcosa di veramente straordinario. È una casa a tre piani, poi sono andata perfino a vederla, a fotografarla, tutto quanto, dove abita ancora un vecchissimo zio che avrà un 86 anni all'incirca, quindi la madre, che è più o meno la storia di questa qui. È una casa piena zeppa di roba, dove non si può più neanche passare, perché era una donna che non buttava mai niente. E questo qui è una storia abbastanza comune delle persone anziane, quella che non riescono a separarsi più da niente. C'erano giornali di 50 anni fa, ma lui me l'ha raccontato, quindi ho descritto la sua casa, infatti lui l'ha ritrovata e si è divertito un mondo, perché era la casa di sua nonna. Questa casa mi ha ispirato tutta questa storia, perché una casa dove non si può neanche più entrare, e sono tre piani, tutti occupati da mobili, scatole, carte, cose veramente non si può immaginare. Tant'è vero che il fratello di questo mio allievo voleva andare ad abitare, perché abita una persona sola. 6 mesi ha impiegato per cercare di liberare un piano, poi ci ha rinunciato e se n'è andato, si è affittato una casa, perché è troppo pieno. Questa qui è stata l'origine di questa storia, questa casa. Io volevo fare una considerazione. Dimmi. Come questa signora anziana ricorda il suo marito sempre col nome di signor Gruber. Non c'è mai stato quell'intimità di chiamarsi per nome. Ma anche a letto diceva sempre signor Gruber. Questo è pazzesco, no? Come, no, come ma si è possa una forma di rispetto. Devo dire un'altra cosa, questo qui non è nato da niente. Mio marito mi ha raccontato che i suoi nonni, la nonna, chiamava il marito sempre Zucker. Sempre. Non lo chiamava mai per nome. Col cognome. E questa cosa mi piacque moltissimo, perché è molto strana. Però in Austria, in questo tipo di società, c'era questo modo di darsi del voi, per esempio, voi, e sì, di chiamarsi per cognome. Il signor Gruber. Per lei era sempre il signor Gruber. Certo. Un salvatore, no? Perché lei deve pensare che c'era una trentina di anni di differenza, se non di più. Comunque, lei aveva rispetto, un grandissimo rispetto per lui, no? Lo ha tradito da tutte le parti, naturalmente. Per lei era una cosa da niente tradirlo, però aveva un rispetto enorme di lui. Lui era il rifugio della sua vita, praticamente, e quindi mai lo avrebbe chiamato per nome. Infatti non viene fuori neanche come si chiamava, forse lo sapeva appena lei. Era una persona di grandissimo riguardo per lei, e insomma, che lei abbia avuto una quantità di figli con lui, praticamente lo ha voluto lei, come si vede in una scena, come lei seduce il marito, è lei che lo seduce, perché lui è troppo al di sopra. Prego. Nei tuoi racconti appaiono sempre delle ragazze giovani che in qualche modo poi hanno una loro storia. Ecco, in questo trascorrere di vita di queste ragazze, in sostanza, secondo te queste donne come valutano poi questo rapporto con gli uomini che hanno avuto, a cui si debbono essere adattati, si sono adattate insomma, in qualche modo. Ecco, come l'hai vista tu questa posizione? No? Perché tutto sommato tutte hanno subito violenze, sembrava quasi una normalità per loro, esatto, perché questa era l'epoca, hanno conosciuto forse anche un amore del tutto particolare, ma non forse quello che noi immaginiamo, in sostanza. E poi le ritroviamo vecchie, no? Con tutto questo loro passato. Ecco, nella loro vecchiaia, come le immaginate? Insomma? Come le ho immaginate? Dico, non posso pensare a me stessa, perché io sono una donna molto evoluta. E, ho viaggiato moltissimo, ho visto molte persone, conosciute tante. Cioè, io non sono come mia madre, tanto per dire. Allora, se penso a mia madre, oppure alle donne della sua generazione, e più o meno sono queste in un certo senso, c'era una grandissima rassegnazione. Rassegnazione. Una grandissima rassegnazione. Cioè, questo nasce anche dall'educazione che hanno avuto fin da bambine. Cioè, il fatto che una bambina deve sempre sopportare, a un certo punto diventa una seconda natura, non pensa che ci sia un'altra possibilità. Per mia madre o per le donne di questa generazione mai sarebbe venuto in mente la possibilità di dire ma non è possibile, anche io sono un essere umano. Se pensiamo che le leggi, per esempio sul divorzio, sono soltanto del 70, del 72 o qualcosa del genere, e prima c'era la famosa patria potestà, cioè nel senso che una donna si sposava, mia madre, caso di mia madre, era una ricca ereditiera, mio padre zero soldi, lui ha subito avuto, cioè lui disponeva di tutti i soldi di mia madre, di tutte le proprietà, di tutte le sue, ma era legge, mia madre lo sapeva, cioè non è che protestava, diceva ma come, questa è roba mia, mai le è venuto questo pensiero, mai, e questo lo posso dire per averlo vissuto. Praticamente mio padre faceva e sfaceva tutto quello che voleva fare, cioè mia madre forse la consultava, forse non la consultava nemmeno. Però sono sempre state donne forti, insomma, emergono in qualche modo. No, una donna forte per me è una donna che non si rassegna. E lo devo dire. Una donna che se la totalità si rassegna, diventa una cosa normale rassegnarsi. Una volta era così, insomma, no? Certo, una però volta era proprio normale. Era normale rassegnarsi. Tutti erano così, come tante altre situazioni che noi adesso vediamo, che non so, io mi ricordo, andavo da piccola in una casa di una mia zia senza acqua in cucina, ma e l'acqua c'era fuori sul piccolo giardino, che bastava tirare un tubo, certo, e veniva qui. Ma no, ma siccome nessuno aveva l'acqua in cucina, si andava avanti a avere, certo, cioè non c'era questa voglia di dire ma risolviamo, non era un problema, non diventava un problema, non si cercava neanche la soluzione del problema. Sì, ma la soluzione l'aveva potuto fare un uomo, scusa se mi metto, certo, in questa cosa. Mettiamo un'altra volta. Siccome il lavoro non lo faceva certo il marito, era lei che andava su e giù. Non la faceva. Era lei che andava su e giù a portare l'acqua, mica l'uomo. Non interessava. Certo. Non interessava. Ecco. E la donna non la chiedeva. E se nessuno ce l'ha, non ce l'ho neanche io. Ma quanto ci voleva? Adesso mi viene in mente. Certamente. No, ma a quei tempi loro non avevano la pecca. Vabbè, insomma. No? Ma io penso che in realtà, da un punto di vista femminile, non c'è niente di peggio della rassegnazione, perché allora non si lotta più, certo, e non si reagisce, non si va avanti. E non si va avanti. Certo. Allora nel momento stesso in cui uno smette di rassegnarsi, di dire ma insomma adesso vediamo un po' se possiamo fare qualche cosa, già siamo usciti da questo ruolo di vittima, certo, perché in realtà le donne soffrivano estremamente di vittimismo. Non bisogna neanche dimenticare che le donne dalla seconda metà dell'Ottocento fino agli anni 20 soffrivano di una malattia che è scomparsa, e cioè l'isterismo. L'isterismo che cosa era? Mia madre era isterica, ma chiaramente, perché è un segno di impotenza totale, cioè nel momento in cui io non posso vivere la mia vita. E poi neanche ne erano coscienti di come volevano vivere, però erano chiuse da tutte le parti, dal punto che non era neanche permesso di pensare, allora reagivano come? Somaticamente, con questi attacchi di isterismo, di nervi, così. E questo per esempio è stata una delle cose più importanti che ha fatto Freud, quello di dire questa non è una malattia, questa è una costrizione di queste donne che non possono essere, finalmente non hanno una libertà di essere, di esistere. Sì, però dico, parla sempre di questa, delle donne che si rassegnano, però non bisogna distinguere rassegnazione dalla adattabilità, che è una virtù che hanno soltanto le donne, e questa adattabilità è una forma di progresso, nel senso le donne si spostano stanno meglio le donne quando si spostano degli uomini, perché le donne si sanno meglio adattare. E anche per questo motivo le donne imparano anche meglio le lingue straniere, perché è una forma di adattamento a una nuova lingua. E quindi questo qui vuol dire essere elastici. No? Però questo ha una lunghissima passato, una lunghissima storia, il fatto della donna che è costretta ad adattarsi, altrimenti non sopravvive. In realtà la donna è... Intanto adesso si ritrova con questo patrimonio, la donna si sente certamente, certamente, questo è un patrimonio che abbiamo ereditato dai nostri bisnonne, che hanno dovuto adattarsi a tutte le situazioni più veramente impervie. Se le considera, questa è la cosa, una delle cose che più mi fa, ogni volta mi viene un attacco veramente di nervi, le contadine, parliamo delle contadine, che lavorano effettivamente dalle 6 del mattino o anche presto, più presto, non lo so perché Ad ogni modo immagino che lavorano esattamente pesantemente come un contadino. Lei però inoltre deve venire a casa, cucinare e anche educare più o meno i figli. Il marito arriva, si siede a tavola e viene servita la minestra a lui, zacchere. Questo, quella è una cosa che mi fa arrabbiare e moltissimo. Dove c'è mancanza di cultura comunque, perché appunto dove la donna ha più cultura, più evoluta, questo non succede. Non succede, però quanti guai prima, quante guerre prima che questo non succeda. Se non ci fosse stato la seconda guerra mondiale, guardi, la seconda guerra mondiale ha avuto, da un punto di vista delle donne, purtroppo, con un mezzo così massiccio, un grande vantaggio, perché le donne dopo la seconda guerra mondiale hanno capito che possono fare benissimo a meno degli uomini, perché hanno cominciato a capire, beh certo, dovevano, perché gli uomini erano tutti in guerra. Allora quando poi questi uomini sono tornati, quelli che sono tornati dalla guerra, si sono ritrovati davanti a delle donne che sapevano il fatto loro, che lavoravano in fabbrica, che sapevano tenere il menage, sapevano tenere un'azienda, che facevano tutto come un uomo. E come fai a rimetterla in un angolo? Alcuni l'hanno fatto per educazione, io lo so, conosco situazioni di questo genere. Dopo la seconda guerra mondiale torna il marito dalla prigionia, la moglie ritorna al suo ruolo di casalinga e basta, e il marito riprende la sua posizione. E questa è una cosa che veramente ogni volta mi metterei a urlare, perché non è giusto, perché anche la donna ha la sua personalità come un uomo. E non è giusto che quando quest'uomo arriva a casa debba venire servito. Infatti ho scritto una storia di questo genere, dice, butta il piatto di... perché... sì. Non più alla scrittura. Perché scrive? Per raccontare di loro. Perché scrive? Questo non me l'hai chiesto. Ma perché sapevo l'avrebbe chiesto la signora. Sì, perché scrive, e qualcosa del metodo è già comparso, cioè un'armatura storica. Esattamente. Certo. Comunque qualcosa sul suo metodo di scrittura. Questo è venuto fuori però dal mio, come io scrivo. Fuori, sì, perché scrivo? Questa è una domanda, dico, potrei risponderle veramente: perché mangio, perché dormo e perché respiro. Ecco, questa è la mia risposta, perché ho bisogno di questo. Perché quando lui dice che io dipingo, che musica eccetera, in fondo le arti, la forma di espressione artistica può cambiare col colore, con i suoni, con la parola, ma la fonte è sempre la stessa, cioè il bisogno di esprimere. Tant'è vero che ci sono moltissimi pittori che cantano, che scrivono, o all'inverso dei cantanti che scrivono, eccetera. Cioè è una delle cose più comuni che un artista che abbia... Dio mio, non voglio veramente mettere questo nome su di me, ma quando uno si occupa di arti, a un certo punto capisce che si può esprimere in vari modi. E perché devo esprimermi? Questa qui è una delle cose che vorrei tanto dire. Io sono l'ultima di 7 bambini e avevo sempre bisogno di gridare per farmi sentire, perché i miei fratelli non mi facevano parlare. Allora mi misi a cantare. Questo è il motivo per il quale si diventa... Infatti quando vengono degli allievi chiedo, tu perché canti? Dico, tu a casa tua parlavi? Dice, veramente no. Adesso ci siamo capiti. Però se forse possiamo aggiungere anche un'altra cosa sul perché scrivi, c'è nella tua scrittura anche una necessità di coltivare la memoria. E vorrei, abbiamo prima accennato questo breve romanzo ancora inedito, ma che uscirà nel 2009 per Traven Books, Il penso Silenzio. La fine di quest'anno. Ecco, è forse la fine di quest'anno. Ma c'è un tuo romanzo che, possiamo dirlo, ha suscitato l'interesse di importanti scrittori, ma che ancora non è approdato a una certa pubblicazione, che è sul tema della memoria e diciamo il tema della memoria è centrale, si intitola La casa del nonno. E questo anche per dire, prima si diceva una scrittura politica, ma una scrittura politica anche con una radice etica, cioè l'importanza di far conoscere, perché la casa del nonno vuol dire che c'è un nonno, c'è un nipote, anzi una nipote, Chiaro, far conoscere un passato. Che passato è questo della casa del nonno? E per quello ti sei stupita quando sabato ti ho detto sai che hanno arrestato dei nazischini nel Meranese? Hai detto come dei nazischini nel Meranese? Ancora ci sono dei nazisti, certo, però ci sono anche in Germania. Ecco. Ma il nazismo di adesso nasce dall'ignoranza. Questa è una delle cose più importanti, che sono dei ragazzini, diciamo, soprattutto ignoranti. E qui adesso se arrivi tu, perché tu che sei a scuola, capito, sempre ci vuole l'educazione, comincia lì, la conoscenza, guarda come reagisce, ma è la realtà. Se non si comincia a scuola, dove si vuole arrivare? Quando si è già adulti? Ricordati che la scuola è una cosa piccola così, poi c'è la televisione che è grande così, è una battaglia non da poco. La televisione ha una capacità di manipolare le coscienze, non voglio passare alla politica di oggi, ma insomma... io insegno in un liceo a degli adolescenti e la battaglia è molto dura tra la televisione e la storia, perché tutto quello che i ragazzi sanno del mondo lo sanno attraverso la televisione. La televisione di cosa parla? Dello stupro del rumeno, dei vicini di casa che hanno ammazzato il vicino di casa, cioè non è che parlano mai dei problemi veri o poi della storia. Qui a Bolzano c'è la possibilità ogni tanto di sintonizzarsi volendo sulla ZDF, tu lo sai meglio di me, quante trasmissioni storiche ci sono sulla, questo volevo sulla, dire. Sulla ZDF? Purtroppo l'Italia vive in un momento di rimozione storica, di rifiuto della cultura, per noi insegnanti è una bella battaglia. Senti, cara, è un momento ogni tanto abbiate una parola di comprensione, di compassione per il duro lavoro che ci toccava. Andateci sempre alla croce, date ogni tanto questa croce, tiratela addosso al televisore fino a spaccarlo, così i vostri figli, i nipoti non se la guardano più e noi finalmente cominciamo a seminare un po' di cultura, eh. Ma... dunque, cominciamo da questa storia della televisione italiana, purtroppo che deve essere un disastro. Io non lo so perché non la guardo mai. Però in Germania ci sono una quantità di trasmissioni che trattano su questo tema del nazismo, e serie addirittura, che ripetono, eccetera, eccetera. Naturalmente c'è chi vuole e chi non vuole vederle. Ma qui in Italia sono alle 11:30 mezzanotte, noi quando ci sono, oppure alle 9 del mattino quando siamo tutti al lavoro. No, lì le fanno veramente alle 8, proprio l'ora precisa, e sono veramente sono delle trasmissioni che vengono viste da milioni di persone. Certamente, e questo della oggi, poco prima di partire c'era una trasmissione alla Fahrenheit, che voi forse conoscete, su Radio 3, sul fatto della capacità degli italiani, non dico adesso, ma da più di 50 anni, se non da 60 anni, che chiudono occhi e orecchie sul loro passato fascista. Questa è una delle cose più gravi di un popolo. Loro si sentono tutti, c'è un famoso libro di Bock che si chiama Italiani brava gente, come se gli italiani fossero stati improvvisamente soverchiati dal fascismo, il quale fascismo dopo 23 anni è sparito senza lasciare ombre, il che non è vero perché sono rimasti una quantità di fascisti e li vediamo ancora adesso. Cioè la confrontazione col proprio passato, e questa qui è la cosa che mi interessa di più, non soltanto da un punto di vista politico ma anche da un punto di vista umano. Ognuno di noi ha un passato col quale si deve confrontare, e questo lo fa giornalmente. È inutile chiudere gli occhi sui nostri errori, perché anche noi abbiamo fatto molti errori, sulle nostre anche incapacità di reagire a certe situazioni, quante volte mi sbatterei la testa al muro, però è il nostro compito, non possiamo chiudere gli occhi sulla nostra vita e su quello che siamo stati noi e su quello che abbiamo combinato noi, perché anche noi abbiamo le nostre responsabilità. E questo qui, il dovere della memoria è questo, perché ecco perché io scrivo, lui sempre mi accusa. Non è vero, ma di una buona parola. Ah, dice, tu ce l'hai sempre con la memoria. Dico, un essere umano senza memoria non esiste. La cosa fondamentale che distingue un essere umano da un animale, a parte tutte le altre cose, è proprio la sua capacità di memoria. Io con questo non voglio scrivere che i miei poveri animali non si ricordano qualche cosa, ma stiamo scherzando. E come? Però in forma molto limitata, naturalmente, molto limitata, il loro cervello arriva fino a certe cose. Questo qui è stato provato anche scientificamente. Però l'essere umano non deve prendere e chiudere la propria memoria quando ci sono delle cose che non funzionano. e questo qui è un po' il compito della letteratura. Come hanno fatto in Germania? Bisogna dire che in Germania sono stati degli scrittori, Böll, Günter Grass, che hanno messo il popolo tedesco di fronte alle proprie responsabilità, fare i conti con la propria storia. Forse la Germania alla fine l'ha fatto di più, con una storia sicuramente rispetto a quella italiana molto più drammatica, che ha coinvolto dalla parte dei carnefici molta più popolazione, sì, che non l'Italia. Però hanno italiani aspettato, col fascismo, se posso interromperti, hanno aspettato finché negli anni questi, 60 hanno cominciato, però l'hanno fatto i conti. Hanno aspettato finché tutti i vecchi nazisti sono morti, allora ne sono rimasti un paio, però, allora insomma, hanno cominciato, perché in realtà quando è finita la Seconda Guerra Mondiale, chi è? Dove sono spariti questi nazisti? Dove sono spariti questi fascisti? Erano tutti lì. Erano tutti lì, chiaramente. No, erano a Merano. Erano tutti a Merano. I fascisti e i nazisti erano a Merano. Tutti a Merano. E un'economia per tirarla su ci vogliono i dirigenti. Uh-huh. E se i dirigenti sono solo i nazisti, allora cosa certo, si fa? Certo, non si combina niente. Si deve tirarlo su. E poi in Germania hanno fatto tavola rasa. Sì, ma dopo che sono morti tutti. Non si parla della Libia, non si parla dell'Etiopia, non si parla della Francia nel 39. Esattamente, ma anche della Grecia, del Peloponneso e di tutto quello che hanno fatto. I serbi hanno ammazzato i croati hanno ammazzato i serbi e lì si ammazzano da 50 anni, ogni 10 anni. E in Italia non si parla. No, non si parla di queste cose. Di qui si parla della cronaca nera, quella che in altri tempi si chiamavano cronaca nera. Devo dire una cosa, che le notizie che qualche volta mi guardo in Italia sono quelle che dici te. In realtà queste sono notizie di cronaca nera che non entrano nel giornale radio, o come si chiama, nel TG o come lo chiamate, non entrano, perché in realtà il TG è soltanto un fatto di politica. No, ma forse uno potrebbe anche dire, quando dicono una studentessa americana è stata uccisa a Perugia, pietà per la studentessa americana, ma detto ciò poi al popolo italiano cosa gliene può importare? Cioè nella nostra vita non è che cambia assolutamente, se poi ce lo ripropongo tutti i giorni con i dibattiti, tu dici ma allora lo fate apposta, allora proprio lo fate, certo, per non parlare d'altro? Ma è chiaro che lo fanno apposta. Ah, hai portato un po' di copie del tuo libro, se qualcuno lo vuol comprare. Se qualcuno ancora voglia. Io naturalmente vi raccomando di comprare il libro. Forse possiamo, attenzione all'acqua, chiudere, se non ci sono altre domande, con una battuta veloce sull'ultimo racconto, che è quello un po' più anomalo tutto sommato rispetto agli altri, perché racconta di queste due turiste che da Roma arrivano in vacanza, ecco l'Alto Adige del turismo, se vuoi, dalle parti di Bressanone, mi pare di capire, a Bressanone e fanno un incontro, conoscono l'orco, il signor Müller. Il signor Müller. Questo racconto l'ho messo per ultimo per un motivo fondamentale, perché si tratta di un'italiana e un tedesco. Ci sono tutti i sintomi precisi dei tedeschi che hanno per gli italiani e degli italiani che hanno per i tedeschi. C'è questa specie di attrazione e repulsione fra i due popoli, che sempre sono stati così. Non so, i tedeschi vengono in Italia, andare in Italia, eccetera. Cioè l'Italia è il paese proprio bello dove si gode, dove si fanno delle cose che non si fanno mai a casa. Le italiane ammirano questi vichinghi che arrivano, questi uomoni, così. Poi nella realtà, quando effettivamente si incontrano in un modo un pochino più da vicino, scoprono che ci sono delle diversità tali, insormontabili. E così è la storia di questa Alice e l'orco. L'ho voluto fare come conclusione per dire ci sono tante diversità fra questi due popoli, con tutto che ci sono delle attrazioni, perché in realtà si innamorano, però non finisce, non si conclude. Nessuno lo dice apertamente. Nessuno. Io, se posso aggiungere qualcosa, devo dire che mi piacciono molto le figure femminili, perché sono nelle loro debolezze, nelle loro vicissitudini, le loro sofferenze sono sempre vincenti. Io trovo veramente che sono delle belle donne e dei bei personaggi. Cioè sono persone che hanno delle vite durissime alle spalle, anche nell'ultimo racconto comunque sono donne che hanno delle problematiche che sono attuali, molto molto forti, molto sentite, e che però nell'arco della storia non sono persone che si rassegnano che si deprimono, cioè non sono, o sono sconfitte, no, non no, sono io sconfitte. Le trovo tutte vincenti, cioè un mondo al femminile con voci molto diverse e molto contrastanti, però molto molto molto forti. Vincenti, eh? Sì, secondo me sì. Donne. È un libro, sono molto belle per quello, sì. Sono punti di vista diversi, però tutti vincenti. E poi la, sì, importante è che sopravvivono tutti gli uomini. Lo sappiamo, ci fate fuori sempre prima. Bene, no, allora. Anche cambiato adesso l'infarto. Se volete, appunto, il libro lo potete prendere. Qua io ringrazio Ada, ringrazio tutti voi, e aspettiamo di presentare allora Il Silenzio. Il Silenzio. Qui è una storia abbastanza forte. Bene. Ecco qua il libro. Ada, fai tu. Sì. Di casso. Come mai? Prego. La scuola del piccolo e bene, ma io pensavo che parlassi di te, la scuola che sono state legata. Quando viene? 13. Ma lo leggerà. Mandami la mail. Poi ti racconto alcune cose. Non sono venuta, ma te le dirò. Perché le dirò? Ho avuto la guerra in Germania e dice non so come ero messo di partito, ma quello che racconto la questione. Quando io avevo 30 anni in Germania, vivevamo in modo diverso. C'era la restrizione, cioè,